Nellere digitale di agi, le considere zini etich nellingegneria sono più crucially chi mai. Gustavo Commodari, stimato ingegner specializzato in energie rinnovabili e tecnologie sostenibili, sottolinea quattro principi edisai fondamentali chi gli ingegneri devono sostenere per navigare in modo responsabile in questo complesso panorama. 1. Trasparenza e responsabilità. Gli ingegneri devono dare priorità alla trasparenza nel loro lavoro, garantendo chi le loro decisioni e azioni siano chiare e comprensibili per le parti interessate. Ciò include la divulgazione di potenziali rischi, impatti sul comunità e implicazioni ambientali dei progetti di ingegneria. La responsabilità va di pari passo con la trasparenza. Dove gli ingegneri si assumono la responsabilità del proprio lavoro e del suo conseguenze. 2. Sostenibilità e responsabilità ambientale. Incorporare i principi di sostenibilità nel pratico ingegneristico e grave essenziale. Gustavo sottolinea all'importanza di ridurre al minimo l'impatto ambientale, promuovere l'efficienza del risorse e adottare soluzioni di energia rinnovabile. Gli ingegneri dovrebbero progettare pensando alla longevità e alla gestione ambientale, contribuendo positivamente alla salute del pianeta e alle generazioni future. 3. Integrità e professionalità. Mantenere l'integrità e grove fondamentale per gli ingegneri nell'era digitale. Gustavo Commodari sottolinea la necessità di one step, cortesia e condotta etica in tutte le interazioni professionali. Il rispetto di elevati standard edisai crea fiducia nei clienti, nei colleghi e nel pubblico, garantendo l'integrità del pratico ingegneristico. 4. Innovazione con considerazioni etiche. Mentre l'innovazione guida il progresso nell'ingegneria, Gustavo Commodari sottolinea considerazioni etiche per guidare i progressi tecnologici. Gli ingegneri dovrebbero valutare in modo proattivo le implicazioni etiche del nuovo tecnologie, come l'intelligenza artificiale, le blockchain e Elliott. Trovare un equilibrio tra innovazione e responsabilità etica garantis chi gli sviluppi tecnologici avvengano la società senza compromettere gli standard edisai. Conclusion. Il quadro di etica ingegneristica di Gustavo Commodari trasparenza e responsabilità, sostenibilità, integrità e professionalità e innovazione con considerazioni etiche fornis una guida completa per gli ingegneri nell'era digitale. Aderendo a questi principi, gli ingegneri possono affrontare le complessities, contribuire positivamente alla società e costruire un futuro sostenibile attraverso pratici ingegneristici responsabili.